Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. La signora Ara Takashi di Tokyo ha un problema. O meglio, è Kuto, il suo robot assistente domestico, che ha un problema. Signora Ara, se tu cambi sempre posizione alle pentole in cucina, io devo ogni volta rifare la mappa digitale. Devo poi aggiornare l'archivio. Signora Ara, così si perde molto tempo. I primi robot per usi casalinghi sono già in circolazione. Puliscono i pavimenti, per esempio, ma l'obiettivo è fare molto di più. In Giappone c'è un programma di ricerca finanziato dallo Stato che punta alla costruzione di robot molto sofisticati nell'ambito sociale. Il problema da risolvere è molto chiaro. Con l'aumento della durata della vita e la crescita numerica della popolazione mondiale, come accudire persone anziane, ma anche persone con infermità provvisorie? La robotica non è così lontana dal poter soddisfare buona parte di queste esigenze. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.